Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 16 minuti in questo istante, oggi è venerdì 23 marzo, a Salva Danaio ci occupiamo di colf e di badanti, di tutte le regole da ricordare in caso siano in atto questo tipo di rapporti. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, quindi come sempre aspettiamo le vostre domande, i vostri dubbi, per rispondere alle quali abbiamo ovviamente come sempre illustri ospiti. Saluto, collegati telefonicamente, la dottoressa Teresa Benvenuto, segretaria nazionale di Assin.Colf. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. E saluto anche il dottor Bruno Perin, presidente di Cassa Colf. Buongiorno anche a lei. Anche a voi radioascoltatori. Prima però, come sempre, di addentrarci nel tema di oggi della puntata, andiamo velocemente a vedere che cosa sta succedendo sui mercati, perché non si mette bene la giornata. E allora, tutti gli indici sono in territorio negativo. Parigi cede lo 0,44%, Francoforte lo 0,17%, Londra cede lo 0,11%, peggio fa Milano dove il FTSE MIB cede lo 0,57%, il FTSE All Share cede 1,0,55%. Cominciamo dai titoli peggiori. Sul listino principale, Monte dei Paschi di Siena, meno 3,5% in questo istante, continua ad ampliare le perdite. Il titolo dell'istituto di credito, lo dicevamo anche nel corso del giornale radio, MPS soffre il complicarsi di queste trattative tra la fondazione e i possibili eventuali acquirenti della quota messa in vendita. E poi giù anche Generali, meno 1,5%, la Popolare di Milano che cede l'1,4%, Eni l'1,23%, il Banco Popolare cede l'1,21%, Telecom Italia e A2A poco più di un punto percentuale. Invece il titolo migliore resta Mediolanum, più 3,35% in questo istante, rimbalzo per il titolo dopo che ieri invece aveva perso terreno nella giornata in cui sono stati comunicati i dati. Buzzi Unicem guadagna il 3,12%, Enel Green Power il 2,73%, Exora il 2,13%, STM l'1,76%, Pirelli l'1,74%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3250 sul dollaro. Sul fronte del differenziale BTP Bund si amplia la forbice, siamo a 329 punti base. Problematica che non riguarda solo i titoli italiani oggi, ma lo dicevamo poc'anzi anche per quel che riguarda i titoli spagnoli e il differenziale con i bond, anche qui siamo sopra quota 360 punti base, quindi stanno riemergendo i timori sulla, non solo sulla crescita economica e sugli eventuali rischi di recessione, ma anche tutte quelle visioni allarmistiche sulla crisi di alcuni dei debiti pubblici, e quindi in particolare in questo caso abbiamo parlato della Spagna, su cui sembrano il paese al quale sembrano rivolgersi le attenzioni del Financial Times, e cosa che riguarda anche noi oggi, appunto, con questo differenziale che è cresciuto rispetto alla giornata di ieri. Esaurita la nostra parentesi relativa ai mercati, ma un'ultima cosa ve la voglio dire, perché in relazione al BTP Italia, questo nuovo strumento, la raccolta è stata veramente record, ha fatto il tutto esaurito, raccolti ordini per 7,29 miliardi, lo ricordiamo, uno strumento a 4 anni indicizzato all'inflazione. Ieri ha chiuso il collocamento per poi iniziare le negoziazioni lunedì 26 marzo, fissata la cedola da parte del Tesoro al 2,45%. Vi ricordo che la prima cedola semestrale verrà a scadenza il 26 settembre 2012 e sarà pari all'1,22% circa più l'indice dei prezzi al consumo FOI osservata nel semestre. Veniamo a noi invece al tema di oggi, colf e badanti, tutte le regole da ricordare e soprattutto da rispettare, che non sono poche e bisogna stare molto attenti. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, la nostra scheda. Dai colloqui di selezione agli accordi sugli orari di lavoro, dalla preparazione dei contratti al pagamento dei contributi. Assumere un lavoratore domestico può trasformare improvvisamente una normale famiglia in un datore di lavoro. E non è detto che tutti abbiano un'esperienza tale in questi ambiti da gestire subito con disinvoltura la situazione, senza dubbi e preoccupazioni. Sono circa 1,5 milioni le persone impiegate come lavoratori domestici, un numero destinato a crescere con l'aumentare dell'età media e la sempre maggiore necessità di assistenza e collaborazione per le persone anziane. La categoria si avvia a diventare sempre più importante, quindi, e ha come colonna portante la presenza di tanti lavoratori stranieri, quasi l'80%. Per gestire correttamente questi rapporti lavorativi è fondamentale avere ben chiari diritti e doveri, regolamenti e scadenze, accordi ed esigenze. Tra i punti principali da tenere a mente, il pagamento dei contributi previdenziali all'INPS, che si calcolano e si versano trimestralmente, dal 1 al 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Nel 2010, poi, è stata costituita la Cassa Colf, allo scopo di gestire trattamenti assistenziali e assicurativi integrativi a favore del lavoratore e coperture a vantaggio del datore. Alla luce delle novità arrivate con le ultime riforme, poi, un altro aspetto da tenere a mente riguarda le modalità di pagamento. Anche in questi casi, infatti, non è più possibile pagare i lavoratori in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, un aspetto che, vista la tendenza piuttosto diffusa all'erogazione cash degli stipendi, potrà causare non poche difficoltà. Allora, eccoci qui, sono le 12:22. Voglio ricordarvi che la Sindatcolf è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico e quindi la dottoressa Benvenuto ci aiuterà a capire che cosa devono fare questi datori di lavoro, che sono datori di lavoro in questo caso particolare, quindi sono famiglie che assumono colf e badanti e che improvvisamente si ritrovano ad essere una sorta di imprenditori. Però mi permetterà, spero mi perdonerà la dottoressa Benvenuto, se comincio dal dottor Perini, perché vorrei che, oltre a quello che abbiamo raccontato nella nostra scheda, ci dicesse qualcosa di più della Cassa Colf, visto che è come dire, così giovane, nata nel 2010. Io vorrei anche capire se questo è stato uno strumento che è riuscito a farsi conoscere in questi pochi anni e quanto è utilizzato, visto che non solo va a favore del lavoratore ma anche del datore di lavoro. Sì, possiamo dire che la scommessa che le parti sociali hanno voluto tentare con il rinnovo dell'ultimo contratto e con la costituzione della Cassa Colf, possiamo dire che un obiettivo positivo l'abbiamo raggiunto. In soli 2 anni, quasi 3 dall'inizio dell'attività della Cassa Colf, possiamo registrare un'adesione tra datori di lavoro e lavoratori di oltre 600.000 iscritti. È una scommessa perché il settore è complicato, come la nostra scheda iniziale ha in maniera chiara evidenziato, non solo per la polverizzazione tipica del nucleo familiare, ma anche per il forte turnover che esiste propriamente in questo settore. Quindi comunque è sempre una materia da tenere molto bene sotto controllo quando appunto ci si trova dalla parte del datore di lavoro, della famiglia che assume, del singolo, insomma di coloro tra noi che ricorrono a questo tipo di collaborazioni. Dottoressa Benvenuto, partiamo dall'inizio, perché nel momento in cui si mette in piedi un rapporto di lavoro è necessario mettere giù un contratto fatto con tutti i crismi. Certo, proprio per questi soggetti che non hanno una vocazione imprenditoriale, perché appunto è un'attività limitata alla gestione della famiglia, sì, alle esigenze della famiglia, spesso queste persone non hanno conoscenza della normativa esistente e del contratto collettivo da applicare, per cui commettono una serie di errori che puntualmente, anche grazie alla vostra trasmissione, cerchiamo di eliminare informandoli delle tecniche da porre in essere per evitarle. È importante sottoscrivere un contratto di lavoro tra le parti, dove vengono stabiliti tutti gli elementi cardini che andranno poi a regolare questo rapporto di lavoro, proprio per evitare che il datore di lavoro non abbia coscienza di essere un datore di lavoro e per il lavoratore perché lo stesso abbia riconosciuto tutti i diritti di cui, certo, di cui deve godere. Allora, diciamo velocemente quali sono proprio i punti fondamentali, necessari che non si possono eludere in un contratto di lavoro di questo genere? Naturalmente bisogna concordare l'attività lavorativa che sia appunto corrispondente alle esigenze del datore di lavoro, quindi definire bene le mansioni, stabilire la retribuzione che non può essere inferiore ai minimi sindacali previsti dal contratto collettivo e che ogni anno vengono rinnovati secondo gli indici Istat da una commissione che si riunisce presso il Ministero del Lavoro. Quindi è importante anche tenere un occhio attento a gennaio di ogni anno presso questo aspetto. Poi è importante definire appunto quelli che sono gli elementi che poi diventano sempre elemento di discordia, e quindi le ferie, come saranno godute le ferie, l'abitazione, cioè il luogo dove questa attività verrà svolta. Perché spesso i datori di lavoro chiedono una prestazione presso più abitazioni, presso l'abitazione del figlio, eccetera. E quindi una volta indicati e stabiliti questi elementi cardini si sottoscrive il contratto di lavoro e si comunica questa assunzione all'INPS. Con questi sistemi nuovi introdotti di recente dall'INPS. Ecco, ne parleremo tra poco, perché questo può essere un altro problema da tenere bene a mente e che forse ha disorientato un po' negli ultimi tempi molte famiglie. Intanto voglio subito coinvolgere la signora Maria dalla provincia di Udine. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Ci dica. Io vorrei sapere, so che in caso di necessità si possono utilizzare voucher per avere una badante. La mia domanda è se uno ha bisogno di assistenza alla persona, perché la voce è lavori domestici, io non ho bisogno di lavori domestici, ma assistenza alla persona, è possibile usare il voucher una volta ogni tanto quando serve? Allora, forse la dottoressa Benvenuto in questo ci può aiutare e magari possiamo ampliare il discorso, possiamo dire quando è possibile ricorrere a questi voucher? Allora, la signora può utilizzare i voucher anche per l'assistenza alla persona e quindi non solo limitatamente ai lavori domestici, quando però appunto c'è il caso evidenziato dalla signora, quando l'attività serve occasionalmente, cioè una volta ogni tanto. L'occasionalità nel settore domestico è difficile da definire poiché quando il datore di lavoro esordisce dicendo da me viene una volta ogni tanto, una volta a settimana, non è occasionale, sembrerebbe occasionale rispetto alla funzione, all'attività lavorativa di una settimana, ma in realtà è una prestazione continuativa che viene svolta limitatamente un giorno a settimana, quindi c'è continuità, quindi non è possibile utilizzare all'utilizzo dei voucher, ma stiamo parlando di un rapporto di lavoro a tutti gli effetti subordinato e deve essere regolamentato e comunicato all'INPS con la denuncia di assunzione tradizionale e sottoposto all'applicazione di tutte le norme che stanno all'interno del contratto collettivo. Le 12:33 minuti, comincio questa seconda parte di Salva Donaio con un sms un po' amaro, ma comunque che registra l'umore del paese. Sarò ingenua, ma quanti anziani o quante delle loro famiglie potranno in futuro continuare a usare questi collaboratori? Tra aumenti di IVA e tasse, per non parlare dell'IMU, secondo me o si mangia o si assumono collaboratori, allora o si paga in nero o si licenzia. Detto questo, apriamo un altro capitolo, che è quello relativo alle malattie, perché c'è un sms di un ascoltatore che ci chiede: se la badante si ammala, cosa devo fare? Allora, forse ci può venire in aiuto il dottor Perin, perché Cassa Colf si occupa anche di questo aspetto, delle malattie per questo tipo di lavoratori. Sì, diciamo che Cassa Colf è nata prevalentemente per quel motivo che ha posto l'ascoltatore. Sì. L'INPS non riconosce per legge la copertura per malattia, il contratto prevede una quota a carico del datore di lavoro che però è oggettivamente insufficiente nel momento in cui ci si trovi di fronte a malattie anche più cruente oppure più durature. A questo punto le parti sociali hanno inteso costruire una forma mutualistica che è la Cassa Colf per poter andare incontro a situazioni particolari. Nel merito, se la dipendente avesse un ricovero ospedaliero superiore a 2 pernottamenti, può richiedere le prestazioni insieme alla Cassa Colf, la quale gli riconosce 20 euro al giorno di diaria ospedaliera, sì, per un massimo di 20 giorni, e se nella cartella di dimissioni dall'ospedale prevede un periodo anche di convalescenza, sì, il fondo la Cassa interviene sempre con ulteriori 20 euro per un massimo di 10 giorni. Benissimo, a questo proposito, sempre quindi a proposito di una eventuale malattia, Alessandro dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. No, per me è il caso contrario, cioè la malattia dell'assistito. Cioè io ho una badante che segue mia madre 91enne, 24 ore, cioè quindi ha un contratto regolare, sì, sta sì, con sì. Mia madre. Mia madre è stata ricoverata per una banalissima operazione di calcoli e la badante, avevamo chiesto alla badante di andare in ospedale, invece di stare in casa di andare in ospedale, almeno di giorno. E lei ha detto di no perché il contratto prevedeva l'assistenza presso il domicilio e non in ospedale. Allora, vediamo un po' se in questo caso ci può appunto venire in aiuto la dottoressa, benvenuto, perché qui si tratta forse di una modifica in corso di quelle che sono le condizioni abituali di svolgimento del lavoro. E che spesso succedono episodi di questo tipo. Sì. Infatti noi nel momento in cui si imposta questo il contratto iniziale facciamo inserire la clausola che il lavoratore deve seguire per brevi spostamenti il datore di lavoro qualora questo si verifichi, quindi una sorta di trasferta momentanea e questo avrebbe diciamo agevolato, certo, questa reazione della lavoratrice, cioè avrebbe impedito alla lavoratrice di rispondere così. Poi è anche normale e giusto che ci sia un accordo tra le parti, per cui la lavoratrice, per venire incontro al datore di lavoro che in questo, sì, frangente si trova in questa situazione, dovrebbe acconsentire a seguire il datore di lavoro. Certo. Cioè, certo, senza che però il datore di lavoro non gli riconosca un maggior costo per lo spostamento o per quanto, certo, riguarda questo periodo circoscritto. Diciamo che a volte servirebbe anche, come dire, anche in questi casi un po' di buon senso. Luigia dalla provincia di Roma, buongiorno, benvenuta anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho questo quesito. Per un collaboratore domestico che extracomunitario è stato a 12 anni di contributi, però è tornato al suo paese, lui ha compiuto 60 anni e nel frattempo, che cosa non ha diritto, non so come si chiama, se pensione o non lo so, ecco, c'è un qualche cosa per cui lui ha diritto a un contributo oppure un vitalizio, non so come, ecco, certo, il termine preciso. Abbiamo capito. Dottoressa, benvenuto, sempre a lei giro questa domanda. Per chi poi torna al proprio paese dopo aver svolto regolare attività nel nostro di paese e avere ovviamente i contributi versati, che cosa succede? In cui consegna il permesso di soggiorno, cioè non utilizzerà più il permesso del titolo di soggiorno per, sì, rimanere in Italia, può fare in contemporanea richiesta all'INPS in base al suo estratto contributivo di avere l'indennità. Non è un vitalizio, non è, no, una pensione, certo, ma un importo mensile probabilmente anche abbastanza esiguo, visto che ha 12 anni di contribuzione, di, sì, contribuzione, però può aver diritto, può fare la richiesta di questo importo mensile. Verifica, però deve avere anche l'età, no, scusi, aspetti, non mi sto sbagliando, anche a 60 anni può andare bene per l'extracomunitario che ritorna nel suo paese d'origine. Intanto io vi ricordo i numeri attraverso i quali potete raggiungerci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Voglio tornare al dottor Perin perché abbiamo analizzato più da vicino gli aspetti di Cassa Colf che sono a favore del lavoratore. Per quel che riguarda invece il datore di lavoro, quali sono le prestazioni che fornite, che erogate, che quindi dovrebbero in qualche modo invogliare il datore a ricorrere a Cassa Colf? Sì, allora integro le prestazioni al lavoratore, perché oltre alla diaria per ricovero ospedaliero c'è anche un rimborso di ticket per accertamenti per un massimo di 300 euro all'anno. Per il datore di lavoro la Cassa ha istituito un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che nel momento in cui dovesse avere un incidente, un infortunio alla dipendente, sì, che causa la morte o l'invalidità permanente della medesima, e nel caso in cui l'INAIL facesse una rivalsa nei confronti del datore di lavoro, qualora ci siano non responsabilità penale ovviamente, ma solo civile, sì, la Cassa Colf interviene fino alla copertura di 50.000 euro dei costi che verrebbe a caricarsene la famiglia, quindi il datore di lavoro. Dentro in questi 50.000 euro ci sono anche le spese legali e peritorie, che normalmente sono quelle più costose, più onerose, certo, anche difficili da reperire come capacità peritoria. Allora, dottoressa, benvenuto. Le volevo girare un SMS che mi è sembrato particolarmente interessante. È possibile, ci chiede un'ascoltatrice, liquidare di mese in mese tredicesima, ferie, TFR, unire l'importo allo stipendio? Noi non lo consigliamo mai, perché questo è fonte di incomprensione con il lavoratore, che si vede arrivare ogni mese un importo maggiore di quello che la retribuzione pattuita, sì, e può fraintendere il motivo che fa aumentare questa retribuzione, quindi a fine rapporto chiedere tredicesima, ferie e liquidazione, sì, sull'importo corrisposto mensilmente, e quindi c'è questa incomprensione tra i due soggetti che sfocia in una vertenza automatica. Quindi diciamo sarebbe meglio mantenere separati, diciamo, separati tutte queste voci, questi emolumenti, sì, tutto compreso non esiste. Non esiste, si dà una retribuzione che è appunto mensile, e si dà una tredicesima nell'occasione, come recita il contratto, del mese di dicembre, e il TFR si può dare eventualmente una volta l'anno su richiesta del lavoratore. E questa potrebbe essere una soluzione, valida soluzione alternativa. Marlena da Roma, buongiorno, benvenuta. Sì, io volevo chiedere cosa si deve fare per convincere una colf di essere iscritto all'INPS quando lo rifiutano, e cosa si rischia se non accettano di essere dichiarati. Allora, sì, mi dica ancora, dica. Cioè, ho avuto questo problema perché ho avuto una persona per 2 anni e mezzo che era dichiarata straniera e dichiarata, che poi è tornata nel suo paese, dunque con l'INPS i pagamenti online funzionava benissimo per le contribuzioni ed era molto facile. Poi ho ritrovato 2 persone che vengono 2 volte a settimana, dunque in modo regolare, e sono italiane, e loro non hanno fiducia nelle istituzioni italiane dell'INPS e tutto, e rifiutano di essere dichiarati, mi chiedono di pagarle un po' di più e di non avere altre... non far rispettare gli altri. Allora, al di là del fatto che ovviamente la cosa non è legale, ed è anche paradossale che gli italiani stessi non si fidino delle nostre stesse istituzioni, dottoressa, benvenuto, che cosa si rischia? Perché come fare a convincere queste persone? Mi sembra un po' difficile dare consigli, ma che cosa si rischia? Forse in questo caso può essere comunque un modo per convincere, perché si rischierà su entrambi i fronti. Si rischia di non si ha nessuna copertura da un punto di vista INPS e INAIL, per cui un eventuale infortunio sul lavoro non sarebbe coperto, con una responsabilità totale da parte del datore di lavoro, e quindi questo espone il datore di lavoro ad un rischio troppo elevato, e non è il caso di perseguirlo. Si rischia anche nei confronti della lavoratrice, perché si tiene un rapporto di lavoro in nero, certo, e di conseguenza suscettibile a richieste di tutti i tipi, di ogni possibilità sia di retribuzione sia di attività lavorativa eccetera, e di conseguenza è anche da questo punto di vista vietato. La lavoratrice è difficile da convincerla, perché probabilmente non è tanto che non crede nelle istituzioni, ma probabilmente prenderà degli assegni familiari, prenderà delle altre forme di assistenza a cui, certo, non vuole rinunciare. Non vuole rinunciare, infatti questo succede. Il consiglio da dare al datore di lavoro, ed è un consiglio frequente perché queste situazioni si verificano, cioè di lavoratrici che non vogliono essere regolarizzate, è molto frequente, noi diciamo di interrompere il rapporto e trovare altro personale. Le 12:47 minuti e 29 secondi, 30 in questo istante. Allora, volevo aprire un altro capitolo piuttosto importante sul quale ho sentito anche le colleghe prima ne parlavano, per quel che riguarda il pagamento e i contributi, quindi contributi e la modalità di pagamento dei contributi. Dottoressa, benvenuto. Possiamo fare proprio il punto su questo aspetto, perché essendo cambiate alcune procedure, quindi tutta questa opera di procedure online per quel che riguarda l'INPS, magari ha creato qualche problema a qualche famiglia. Allora, le novità, come tutti sappiamo, sono determinate dall'introduzione di un'automatizzazione del sistema, per cui tutto passa online e i contributi INPS non si pagano più con i conto correnti che il datore di lavoro compilava la sua, diciamo, volontà e riempiva in tutti i campi, ma adesso vengono pagati tramite il MAV, prevalentemente tramite il MAV, che è un documento che riporta tutti gli elementi per pagare correttamente il bollettino, che viene predisposto dall'INPS e per il momento inviato anche a casa del datore di lavoro in una fase iniziale o comunque una volta l'anno o ogni 6 mesi, adesso non ricordo bene. Questo bollettino questo MAV può comunque essere modificato accedendo al sito INPS al sito dell'INPS. In un'apposita sezione il datore di lavoro può modificarlo e renderlo confacente con le proprie caratteristiche, le caratteristiche del proprio lavoro, e in questo frangente può anche inserire il codice F2, che è il codice della cassa COLF, per versare il contributo alla cassa, e quindi puoi avere diritto alle prestazioni di cui parlava il dottor Perin. Il problema è che appunto questo accesso alle vie informatiche, ai canali informatici è limitato a una certa fascia di operatori, cioè a persone che hanno appunto una capacità di lavorare su internet, che hanno un computer e quindi una facilità di questo tipo, mentre la fascia degli anziani o di chi non ha questa capacità viene inibita a questo tipo di servizio, e può rivolgersi comunque, l'INPS ha pensato appunto canali alternativi, come pagare questi questi contributi non più non con il MAV, ma andando presso le ricevitorie o presso tutte le agenzie aderenti al sistema Reti Amiche, per cui il datore di lavoro, dando alcune informazioni, può accedere a questi ai dati che contenuti nella banca dati appunto dell'INPS e pagare il bollettino. Chiedo scusa solo questa precisazione, sono soluzioni alternative interessanti, però che non sempre vengono accettate, fatte proprio dal datore di lavoro domestico, che è sempre un datore di lavoro particolare. Allora, velocissimamente, Chiara da Milano, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, segnalo che in occasione della consegna del CUD, adesso in questi giorni, la lavoratrice si è stupita del fatto che dovesse in qualche modo dichiarare questo reddito, perché era convinta che io già in qualità di sostituto di imposte, non si capisce poi come, applicassi delle trattenute anche fiscali. Certo. Io le ho fatto presente che questo non avviene, che è chiaramente evidente dal prospetto paga che riceve mensilmente. Lei mi ha a questo punto in qualche modo accusata di darle un importo inferiore a quello concordato, perché lei appunto era convinta che l'importo fosse già al netto delle tasse, all'ordo dei contributi, ma al netto delle tasse, delle imposte. Quindi chiedo come potermi comportare quando certamente, immagino, a breve mi chiederà un come dire, di rivedere l'importo pattuito, ovviamente in alto. Questa persona, se posso dirlo, percepisce 720 euro lordi al mese per 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed è inquadrata come babysitter perché assiste mia figlia piccola. Allora, sì, abbiamo capito perfettamente. Dottoressa, benvenuto, mi rivolgo ancora a lei. In questo caso mi sembra impossibile pensare che la famiglia sia sostituto d'imposta. Non lo è e non è quindi tenuta, non fa nessuna trattenuta mensile da un punto di vista fiscale. Se tra le parti era stato redatto un contratto che stabiliva appunto la mansione e la retribuzione, la lavoratrice è chiaramente informata di qual era la retribuzione pattuita. Certo. E quindi la sua non conoscenza è la non conoscenza del fatto che il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, non possiamo nessun modo aiutarla, ecco, è così, è un dato di fatto. Certo. E possiamo dimostrarglielo mostrandogli il contratto di lavoro. E se dovesse fare una richiesta di aumenti, valuti la datrice di lavoro se è opportuno continuare il rapporto di lavoro oppure no. O meno, ecco. È anche vero che ci si trova in situazioni in cui molto spesso, ad esempio in questo caso, la signora ha la babysitter che avrà già insomma familiarità col bambino o con la bambina, poi diventa difficile sostituire questo genere di collaboratori che entrano proprio a far parte molto spesso della vita familiare. Proprio velocissimamente, Maria da Palermo, ma deve essere spot. Guardi, io cerco di essere veloce. Si tratta di questo: una collaboratrice domestica a ore, quindi una volta a settimana con regolare permesso di soggiorno e denunciata quindi per le ore di prestazione, e aspetta un bambino. E cosa ha diritto da parte sia del datore di lavoro che da parte dell'INPS? Se c'è un... Allora, vediamo se riusciamo a risponderle, ma proprio velocissimamente, dottoressa, benvenuto, le chiedo una risposta proprio spot. In questo frangente interviene l'INPS pagando la maternità per i 5 mesi di astensione obbligatoria, una astensione obbligatoria, un importo che tiene conto della retribuzione e dei contributi versati nei mesi precedenti. Certo. In realtà deve avere, aspetti un attimo, almeno 24 mesi di contributi versati. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Teresa Benvenuto, segretario nazionale di Assin.Colf, ringrazio Bruno Perin, che è il presidente di Cassa Colf, per essere stati con noi, grazie a loro per aver risposto alle vostre domande. Vi ricordo che è in edicola la guida del Sole 24 Ore Colf e Badanti, resterà in edicola per un mese. Adesso invece l'appuntamento è con la quarta delle pillole curate in collaborazione con INPS per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni, iniziativa che porteremo avanti anche nelle prossime settimane. Questa settimana ci stiamo dedicando a una panoramica sulla ratio che sta alla base dell'impianto della nuova riforma. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Ma le nuove regole della riforma si applicano proprio a tutti? Per prevedere un atterraggio morbido nel nuovo mondo delle pensioni sono state previste delle eccezioni. Le nuove regole non si applicano a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre dello scorso anno e a quei lavoratori che a quella data si sono dimessi in base ad accordi individuali e collettivi. Così come non si applicano ai lavoratori anziani che sono stati collocati in mobilità prima del 4 dicembre 2011 o che a quella data erano stati coinvolti in piani di esubero. Sono esclusi dalle nuove regole anche i lavoratori in congedo per assistere familiari disabili. Tempo a nostra disposizione è terminato, a me non resta che salutarvi, ringraziare Marco Lombardo in redazione, Roberto Scaltritti in regia, a tutti voi l'augurio di un buon weekend. We'll be right back.